L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Innanzitutto buone feste. Ci stiamo per lasciare alle spalle questo 2017, quindi buon anno a voi. E buon anno anche ai nostri ospiti di oggi, che hanno portato o stanno portando avanti proposte di lavoro o lavori interessanti per l'ambiente e la società. Cominceremo dalla raccolta di abiti usati in città, un settore in cui tra l'altro ci sono stati anche degli scandali e in cui c'è chi cerca di portare più trasparenza e beneficenza vera. Proseguiremo con il settore del riciclo italiano, che va bene ma vorrebbe fare di più, per chiudere su una indagine che certifica quanto l'impegno sociale e ambientale renda alle aziende. Allora, come detto, partiamo dagli abiti. Di proposte di raccolta di abiti nelle nostre città ce ne sono diverse. Ci sono contenitori di varie associazioni, che Carina Bolin, presidente di Humana People to People, che è una di queste, vorrebbe in qualche modo coordinare per rendere più trasparente la filiera della raccolta e dell'uso dei proventi di questa raccolta. Sentiamo qual è la sua proposta. Humana ha visto la necessità di trovare una soluzione per un settore abbastanza inquinato anche della criminalità organizzata. Penso che abbiamo tutti letto nei giornali alcuni problemi, scandali sulla raccolta di vestiti usati. Humana da anni lavora proprio per la trasparenza del settore. Vogliamo distinguersi e rendere molto visibile per le persone dove si può fidarsi, chi sono gli operatori sani, e avere un rapporto diretto con il cittadino per poter portare avanti progetti di solidarietà. Su base di questo abbiamo fatto due proposte. Uno è una proposta che si è sviluppata l'ultimo anno, un modello di bando di gara con i comuni e stazioni appaltanti per poter avere una scelta e fare una scelta giusta su operatori che possono svolgere questo servizio. Perché adesso ognuno si muove per sé, diciamo, e non ci sono dei criteri unici per tutta l'Italia, per tutti i comuni su no. cui fare di questi bandi di gara con cui poi dopo si appalta il servizio di raccolta all'uno o all'altro. Non ci sono regole precise. Ovviamente la legge italiana prevede, il codice appalti prevede alcune regole, però è molto, molto generico, e i comuni hanno difficoltà da capire esattamente come gestire un bando di gara. Ci sono due estremi: chi fa un bando di gara che si chiama massimo rialzo, quindi un pagamento per chi fa, paga di più. Chi paga di più, esatto, oppure i comuni che propongono dei criteri molto precisi, che significa forse che solo un operatore può essere presente al bando di gara. Quindi è poca scelta, il merito conta poco. Sì. E sappiamo tutti, una società che non conta sul merito rischia di non sviluppare un'attività sana, ma neanche la parte economica della società va avanti se non ci sono regole precise. Ok, quindi la vostra proposta va nella direzione di dare un punteggio, un valore a tutte le parti, diciamo, che devono dare un punteggio valore a tutti gli aspetti, diciamo, del servizio che va fatto. Quindi, non so, nel modo in cui lo raccolgo, alle persone, ai progetti a cui li consegno, chi fa questo servizio e così via. Quindi dare, esatto, bilanciare un po'. Allora, questa proposta è un punto di partenza che ha degli elementi precisi, che dà molto valore alla qualità, alla trasparenza e un invito a tutti gli operatori e a stazioni appaltanti, quindi comuni, molti utility, di discutere il bando futuro. Quindi è un punto di partenza per includere tutti gli operatori sani del settore per poter concordare il metodo giusto per un nostro futuro e sviluppo del settore. Questo significa che voi avete presentato questa proposta a tutti questi attori e che nei prossimi mesi, diciamo, svilupperete una serie di incontri, oppure qua c'è già stato il calcio d'inizio, diciamo? Diciamo, questo è stato l'inizio. Abbiamo visto un grande interesse, speriamo anche con Utile Italia di avviare un tavolo tecnico per discutere più nel dettaglio. Il bando da nostra parte è già scritta come bozza, quindi è già scaricabile dal nostro sito. E quindi c'è già un quadro generico molto sviluppato che si può lavorare e si può sviluppare ulteriormente. Ma chi sono gli attori, diciamo, oltre a voi? Chi altro lavora? Adesso diceva i comuni e cose, ma altri gestori, diciamo? Diciamo, in Italia sono praticamente le cooperative sociali, ma ci sono anche aziende profit che si presentano per fare il servizio di raccolta di vestiti usati. Ok, quindi non però nel caso dell'azienda Profit questo poi non sarà un servizio, diciamo così, di beneficenza o di aiuto, di, no? Cioè lo faranno perché intendono recuperare questo materiale per fare altro materiale o per venderlo. Esatto, quello che per fare un profit. Certo. E questo è importante, che questo però comunica. Quindi non c'è un indirizzo, cioè uno può decidere se vendere queste cose, il comune può decidere se lo dà un'azienda Profit, sa che faranno del profitto, se lo dà a Umana sa che farà una buona azione. Sì. È libero, diciamo. Oggi la libertà è piena e penso che la cosa più importante è che il cittadino sa. Oggi non lo sa. No, infatti, perché siamo tutti convinti di donare degli abiti a qualcuno o di donare del tessuto, diciamo, e quindi un valore che poi verrà tradotto in beneficenza, in aiuti. Ma già oggi in tanti comuni italiani la raccolta non ha niente da fare con la solidarietà. Però non è detto che il cittadino lo sa, perché la comunicazione non è così trasparente e chiara, e quindi la persona va avanti pensando a qualcosa che forse non è la realtà. Magari era 20 anni prima. Sì, esatto. E com'è che a volte si trovano in una città due operatori diversi? Cioè io per esempio nella mia città vedo sia Umana che la Croce Rossa, convivono normalmente? Dipende un po' come è stato lanciato il bando di gara e che tipo di accordo o convenzione è fatto con il comune. E alcuni comuni preferiscono avere più operatori convenzionati, altri preferiscono solo un operatore che è convenzionato. Quindi può essere scelte diverse. In tanti comuni grandi si sceglie anche avere più operatori, perché può essere anche un maggiore un'occasione magari. Cioè anche maggiore di scelta per il cittadino. Bene, allora, voi che avete una scaletta temporale per questi progetti di discussione con gli altri? Allora, oltre del questo bando di gara che è stato sviluppato, che speriamo di poter portare avanti i prossimi mesi, abbiamo anche sviluppato un metodo di verifica insieme con Bureau Veritas, su quale si riesce a avere un controllo della filiera e dimostrare e comunicare a chi si è affidato ad Umana che la nostra filiera è gestita e controllata non solo primi anelli della raccolta, ma anche in anelli successivi, quindi dove si fa il trattamento, lo smistamento, fino all'ultimo utente del vestito raccolto. E quindi questi due progetti si riuniscono per poter avere più trasparenza del settore. Quindi tutti e due i progetti devono essere portati avanti e speriamo di poter avere dei risultati a comunicare a breve. Dalla raccolta di abiti a tutto il resto, potremmo dire. Nelle settimane scorse c'è stata la presentazione del rapporto 2017 L'Italia del riciclo, promosso e realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Fise Unire, che è l'associazione che rappresenta le aziende che si occupano del recupero rifiuti, quindi del loro riciclo. I dati sono molto positivi in media, anche se non mancano le possibilità di miglioramento. Il fatto è che il miglioramento dipende anche da fattori esterni a questa industria del riciclo vera e propria. Ad esempio dipendono dalla raccolta dei rifiuti. Ci dirà tutto e bene, con la consueta chiarezza, il presidente di Fise Unire, che è Andrea Fluttero. Soprattutto noi facciamo un'analisi della capacità di riciclo italiana, non dell'efficienza dell'intero sistema, perché noi rappresentiamo come Unire e da gennaio Unicircular il mondo del recupero e riciclo e non il mondo intero dei rifiuti. Per cui il nostro messaggio è: più ci date rifiuti da lavorare, più siamo contenti, più abbiamo dimostrato che siamo in grado di riciclare. Quindi ovviamente, in sostanza, che abbiamo le capacità, ecco, di farlo. Le capacità ci sono, le tecnologie anche, gli imprenditori pure, i numeri vengono fuori, l'analisi di EcoCerved dimostra come ci siano oggi 10.500 aziende nel nostro paese che si occupano di questo settore, generano dati importanti in termini di fatturato, no? Solo il segmento del riciclo vale 12 miliardi e mezzo, e quindi voglio dire è tutto un settore che prima del decreto Ronchi non c'era quasi, era comunque molto limitato, quindi questo è un dato positivo e dimostra che c'è questa parte del sistema che funziona ed è in grado di reggere, fatte osservare le debite criticità, che nel momento in cui il sistema dovesse spingere oltre, passando da recupero semplice, da riciclo semplice a economia circolare, quindi con obiettivi più ambiziosi, ci troveremo ad affrontare una serie di problemi, noi come associazione abbiamo l'obiettivo di mettere sul tavolo questi problemi, sul tavolo della politica, e dire sediamoci e uno per uno vediamo come affrontarli, come risolverli per migliorare ulteriormente le nostre prestazioni. I problemi, sì, prego. Il sistema complessivo è un sistema che ha ancora delle carenze, delle lacune che ben conosciamo, cioè zone intere del territorio nazionale che non fa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, abusivismi, illegalità, cioè non è che non ci siano, però noi abbiamo, come dire, l'obiettivo con questo rapporto di illustrare la parte che presidiamo noi, che è la parte dell'economia del riciclo, quindi dire chi ricicla, che performance ha, quali numeri fa, e sono numeri estremamente positivi. Teniamo conto che stiamo parlando solo di una parte del paese, se tutto il paese fosse regime sarebbe veramente un risultato straordinario, già così siamo nei primi posti in Europa. Sì, siamo in grado, appunto, come ricordava lei, con una buona fetta del paese, con delle sacche che però invece sono più indietro. Questo però è un problema purtroppo di altri, nel senso che noi ci occupiamo di offrire gli impianti, le imprese, le capacità imprenditoriali. Certo. Sappiamo quali sono i problemi che dobbiamo affrontare nell'ulteriore sviluppo, ma è chiaro che se il sistema impara e si organizza per raccogliere meglio, per raccogliere di più, per gestire meglio, noi poi non possiamo che offrire il nostro supporto. Quindi l'importante è non confondere il rapporto sull'Italia del riciclo con il rapporto complessivo sull'Italia dei rifiuti. Quello lo può fare l'ISPRA, lo può fare il Ministero dell'Ambiente. Cioè, noi facciamo un rapporto che dice come il sistema delle imprese che si occupano di riciclo gestisce i rifiuti gestiti. È chiaro che viene fuori per differenza, uno dice ma scusa, come mai in Italia voi registrate, non so, 51 milioni di tonnellate di rifiuti da macerie, no? Da materiale di demolizione, e magari in Francia sono 200. Certo. Perché magari ce n'è una fetta che non è gestita, no? E finisce nei campi, finisce nelle discariche abusive, eccetera. Però noi sappiamo quei 51 che vengono gestiti, quindi sono misurati e controllati con i MUD, no? Quindi con la documentazione di legge, sappiamo come vengono gestiti, quanto siamo bravi a recuperarlo, a riciclarlo, a fare materie prime e seconde, eccetera. Più il sistema pubblico sarà in grado di gestire tutta la produzione di rifiuti, e meglio sarà. Poi c'è un altro tema che deve essere affrontato, è quello della riduzione e del riuso, perché noi ci occupiamo di riciclo, però la gerarchia europea sulla gestione dei rifiuti ti dice anche di impegnarti in politiche per ridurre il quantitativo di rifiuti e per riusarli. Ora, se noi da un punto di vista diciamo della contabilità dei rifiuti risultiamo aver meno rifiuti gestiti, potrebbe essere sia perché siamo stati così bravi a fare politiche di riduzione dei rifiuti, e questo sarebbe, come dire, da premio, oppure perché ce n'è una fetta che ci sfugge, e questo invece sarebbe da condannare. Per cui bisogna un po' guardare oltre ai numeri e capire perché ci sono questi numeri. Le facevo l'esempio del materiale di demolizione perché è eclatante, no? Ora facciamo una pausa, proseguiamo tra pochissimo. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli, seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci, vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 21, qui su Radio 24. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio a tutti, proseguiamo la nostra conversazione con Andrea Fluttero sul rapporto l'Italia del riciclo. Noi rappresentiamo le imprese che i rifiuti li ricevono e li lavorano, ci diceva poco fa Fluttero prima della pausa. Non siamo le imprese che li raccolgono, quindi non dobbiamo confondere il nostro ruolo. Comunque, anche se le cose vanno bene, a quanto risulta dai dati, nel campo del riciclo potrebbero andare meglio. Perché non vanno meglio? Perché c'è qualche problema. La parola ancora al presidente di Fiseunire. Ho ovviamente la cosa che frena maggiormente è la realizzazione impiantistica in molte parti del paese, e complessivamente abbiamo un problema di reputazione, cioè noi abbiamo un grosso problema di dialogo con l'opinione pubblica, con le comunità locali, di trasparenza e di superare un pregiudizio che c'è verso qualsiasi tecnologia, verso qualsiasi impianto lavori dei rifiuti. Se si passa da un concetto di gestione dei rifiuti a un concetto di economia circolare, noi dovremmo sperare prima o poi di essere considerati come una qualsiasi fabbrica. Quindi se in un territorio arriva un imprenditore e realizza una fabbrica di scarpe, diciamo che normalmente viene applaudito. Se ne arriva un altro e realizza una fabbrica, paradossalmente per riciclare le scarpe usate, che sono classificate come rifiuti, viene osteggiato. Adesso faccio l'esempio delle scarpe, ma può valere, non so, per i frigoriferi. Arriva un'azienda che fa i frigoriferi, gli fanno gli applausi. Arriva un'azienda che tratta il rifiuto frigorifero, cioè il frigorifero a fine vita, c'è il comitato contro perché dice no, noi vogliamo trattare i rifiuti sul nostro territorio. Ora, se si passa a un concetto di economia circolare, è un'azienda come un'altra che gestisce il prodotto a fine vita, lo smonta e lavora per recuperare e riciclare materia. E quindi noi abbiamo bisogno di superare questo fortissimo pregiudizio, che è comprensibile, perché purtroppo in passato e ancora oggi basta aprire i siti e si vedono inchieste su reati ambientali, su gestioni negative di impianti industriali legati alla gestione dei rifiuti, quindi lo si capisce. Però è chiaro che il nostro settore non potrà svilupparsi se non avrà le dotazioni impiantistiche necessarie. Altrettanto, un altro concetto che dobbiamo far passare è che il riciclo, l'economia circolare, la capacità di essere sempre più performanti nel lavorare i prodotti a fine vita e recuperare materie prime e seconde da reimmettere nella produzione, non consente di eliminare la produzione di rifiuti. Avremo comunque sempre un significativo quantitativo di rifiuti da lavorazione di riciclo che dovremo poter collocare. Quindi non è come dire, dobbiamo combattere un luogo comune un po' superficiale che immagina che a fronte di una economia circolare non ci sia più bisogno di qualche impianto per trattare il rifiuto da economia circolare. Quindi il rifiuto da selezione deve essere valorizzato energeticamente, quindi serve ancora qualche impianto di termovalorizzazione, quantomeno dedicato a noi. Cioè, non si vuole bruciare il rifiuto tal quale, ma quando tu hai fatto tutta la lavorazione possibile, hai estratto tutto il possibile, hai delle frazioni che si chiamano frazioni negative e quelle vanno collocate. Poi c'è un altro aspetto importante, che sono i decreti end of waste, cioè i decreti che devono chiarire inequivocabilmente quando un rifiuto cessa di essere tale e può quindi rientrare in uso. E poi c'è un problema di confronto dei prezzi tra la materia prima vera e quella recuperata, perché quella recuperata non è necessariamente più economica, anzi. Abbiamo bisogno che anche la politica studi degli strumenti di sostegno fiscale all'occorrenza, cioè quando la materia prima vergine cala sui mercati internazionali, ti mette fuori mercato, non è che puoi chiudere l'azienda, perché altrimenti se dopo sei mesi, dopo un anno, cambiano le condizioni e diventi nuovamente competitivo, non puoi riaccendere l'azienda. Quindi c'è bisogno, come dire, di una sorta di camera di compensazione fiscale che sostenga quando ci sono i periodi, diciamo, negativi, il materiale che arriva da questo, perché è una scelta politica di dire questo materiale non lo voglio distruggere per motivi ambientali, voglio averlo per motivi, come dire, di competitività, di strategia competitiva. Certi materiali non sono presenti in Italia, non sono presenti in Europa, quindi se riesco a ricavarli dai prodotti a fine vita ho un vantaggio strategico. Ma se per un certo periodo vado fuori mercato, mi conviene comprarli in Cina o in Cile o da chissà dove, non posso fermare le aziende che lo ricavano in Italia perché costa un po' di più. Quindi ho bisogno in quei momenti lì di un sostegno. Quindi sono diversi questi aspetti che in maniera, come dire, non strumentale abbiamo cercato ieri di cominciare a denucleare, dicendo come associazione di categoria ci proponiamo come interlocutore tra le aziende e il Parlamento e il governo quando ci sarà quello nuovo, per insieme vedere a fronte di ognuno di questi problemi. E ho detto anche ieri, abbiamo detto, noi non è che abbiamo le soluzioni in tasca di tutto. Poniamo il tema, diciamo, guardate, questo è un problema, affrontiamo, perché un rischio che vediamo è che l'affascinazione, diciamo, dal concetto di economia circolare, che è molto bello, possa far passare in secondo piano gli aspetti, diciamo, critici che invece dobbiamo affrontare. Non perché si vuole fare, come dire, polemica, ma perché uno dice, guarda, per raggiungere questi obiettivi che sono belli, che sono affascinanti, dobbiamo però, ci troveremo di fronte a questi nodi. Se li affrontiamo bene, li superiamo. Se non ce ne occupiamo, potranno essere degli elementi che ostacolano questo sviluppo, e quindi rischiamo di vedere semplicemente un cambio di etichetta. Quel settore che prima si chiamava di riciclo, ora lo chiameremo di economia circolare, e finisce lì. Ma non cambia la sostanza. La sostanza invece è un cambiamento molto forte. Un dialogo tra chi ricicla e chi produce, ad esempio, no? Che va sotto il titolo di ecodesign. Cioè, è chiaro che non è più pensabile che chi produca senza farsi carico in fase di progettazione del fine vita di quello che ha prodotto, quindi deve cercare di inserire tra gli input ingegneristici non solo l'efficienza, le prestazioni, il costo, eccetera, ma anche la facilità di recupero e riciclo. Come fai? Magari con dei meccanismi che siano premiali dal punto di vista del contributo ambientale che devi pagare su quel prodotto, se quel prodotto migliora le sue capacità di essere recuperato e riciclato. Insomma, sono molti gli aspetti, certo. Penso che nei prossimi anni li affronteremo, se vogliamo, sulle basi di una solida di un solido sistema industriale che si è creato grazie ai 20 anni di decreto Ronchi nel mondo del riciclo, evolverlo e farlo diventare in maniera più ampia il mondo dell'economia circolare. Pensi a tutta la logistica di ritorno, no? Per andare a prendere il materiale, i prodotti complessi a fine vita a casa dei consumatori. Pensi a tutto il tema dell'ecodesign, quindi della progettazione degli oggetti, sia perché siano facilmente smontabili e riciclabili, e sia perché i materiali che provengono dal recupero e riciclo trovino degli sbocchi. Insomma, lavoro ce n'è per tutti, dalle aziende alla politica, alle amministrazioni locali. Bisogna metterci la testa, cambiare tante cose che tutte insieme potranno fare girare l'economia circolare. Sono aziende diverse da quelle di cui abbiamo detto fin qui, aziende che di mestiere non hanno nulla a che vedere con i rifiuti, che magari non sanno ancora se e quanto impegnarsi in ambito sociale e ambientale. Ebbene, sappiano queste aziende che secondo un rapporto appena pubblicato da Boston Consulting Group, chi adotta approcci sostenibili ha margini e valutazioni migliori. Ne abbiamo parlato con Francesco Guidara, che è direttore marketing di BCG per Italia, Grecia e Turchia. È una ricerca che ha preso in esame 300 aziende di settori diversi, dal settore finanziario al consumer, al settore farmaceutico, al banking e ad altri settori. L'idea era quella di andare un po' a fotografare qual era l'impegno sociale di queste aziende, ma soprattutto capire, questo era l'obiettivo, se questo impegno sociale alla fine, come dire, aveva degli effetti sul business di queste aziende, sia come capitalizzazione che come performance in termini di migliori conti economici, fino a capire anche nel recruiting se questo aveva degli effetti. Questo è un po' l'obiettivo che abbiamo avuto nel condurre questa survey, che è una survey globale, quindi ha riguardato non soltanto l'Europa ma tutti i continenti mondiali. Ma immagino che ci siano molte varianti all'interno di questo mondo del business globale. Sì, ci sono molte varianti, ovviamente la sensibilità cambia a seconda che tu parli di un'azienda che lavora in oil and gas e in geografie diverse, però il tratto comune alla fine c'è ed è molto forte, cioè che oggi un impegno sociale forte, come dire, ha degli effetti immediati e visibili sul tuo business anche nell'immediato e nel breve periodo. Diamo qualche particolare a questo punto, appunto ci sono varie settori, varie aree geografiche, però l'indirizzo è chiaro a livello globale. Se scendiamo un po' più nei particolari, cosa scopriamo? scopriamo ad esempio che quando c'è un impegno sociale molto forte nel settore oil and gas, quindi i classici comparti industriali che si occupano di petrolio, e qui la risposta è estremamente positiva, perché la valutazione, il premio sulla valutazione, quindi anche sulla capitalizzazione di queste aziende, ha un incremento del 19% rispetto alla media del settore. A livello di margini l'incremento è del 3,4% rispetto alla media del settore. Quindi un impegno sociale ha tanti effetti positivi, ma quello che noi abbiamo messo nero su bianco è il fatto che un management più sensibile e più attento a, come dire, calare l'impegno sociale su tutta l'organizzazione vede un incremento di diverse variabili, fra cui 19% per quanto riguarda la capitalizzazione e 3,4% come dicevamo per quanto riguarda i margini. Questo è l'oil and gas. Poi c'è il biofarmaceutico, anche qui abbiamo visto una risposta positiva, qui siamo nell'ordine del 12%, anche le banche, no? le tante tra virgolette vituperate banche di cui si parla vedono un progresso del 3% quando impattano socialmente in modo consistente il loro modo di guardare verso il mondo esterno, è un 3%, i consumer goods l'11%, quindi diciamo che generalmente questo vale un po' per tutto il mondo del business globale, con queste differenze di cui dicevamo prima. Sono cifre particolarmente alte alcune, cioè non è un dettaglio un più 19%, insomma. Assolutamente, non è un dettaglio, è una fotografia, quindi siamo andati a vedere che cosa ha determinato innanzitutto questo incremento nelle scelte strategiche delle aziende. Intanto un punto di partenza, che vorrei dire che ormai la dimensione sociale che noi conosciamo tramite la CSR si è vissuta come un appendice, come io faccio il mio core business e poi ci aggiungo un pezzo di sensibilità sociale, funziona poco oggi in quest'epoca. Ciò che invece è importante è che tutta l'azienda sin dall'inizio, e vorrei dire sin dal management, abbia chiaro che ognuno di noi a livello di individui ma anche di organizzazioni ha un impatto sociale forte, e questo è ciò che conta. E quello che BCG ha fatto è misurarlo tutto quanto nella sua integrità. Per quello noi chiamiamo oggi questo impegno un total societal impact, quindi qual è l'impatto che tutta l'organizzazione ha in ambito sociale, non soltanto con quella CSR che fino ad oggi era soltanto la pagina sociale che spesso vedevamo associata ad un bilancio e che era soltanto limitato lì quello che si cercava di perseguire in ambito di buone pratiche sociali. Quindi questo oggi, secondo bilancio, diciamo, a parte che è andato molto di moda per alcuni anni, diciamo che è al tramonto. Diciamo che è al tramonto, ma quello che si affaccia dopo questo tramonto è qualcosa di estremamente più interessante, perché quello che oggi Boston Consulting dice è che guardate che il vostro impatto sociale non è più soltanto in qualche cosa che decidete ex post di fare, ma riguarda tutti i vostri prodotti e servizi, le vostre operazioni, le vostre attività, e questo si riverbera non soltanto sui consumatori, ma su tutti quelli che sono i vostri stakeholder, comprese le vostre persone, il recruiting. Oggi è innegabile, e noi lo abbiamo misurato, che un atteggiamento virtuoso e consapevole fa sì che i talenti siano più indotti a scegliere questo tipo di aziende rispetto ad altre. Questo è un passaggio molto importante, perché oggi il fatto di essere forti sul mercato significa avere le persone giuste, avere i talenti, poterli trattenere, poterli incentivare, e sicuramente una vocazione sociale così forte fa sì che le aziende possano avere una visibilità molto più ampia quando i ragazzi lasciano l'università e si guardano attorno. Ci fermiamo qui, ci ritroviamo tra una settimana alla stessa ora in un anno nuovo con un sacco di cose da scoprire e da fare. Auguri a tutti da Laura Bettini e buon proseguimento d'ascolto.